Componimento 37° dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Alceta, odi, Melisso, io vo contarti un sogno di questa notte che mi torna a mente in riveder la luna. Io me ne stava alla finestra che risponde al prato, guardando in alto, ed ecco all'improvviso distaccasi la luna, e mi parea che quanto nel cader s'approssimava, tanto crescesse al guardo, infin che venne a dar di colpo in mezzo al prato, ed era grande quanto una secchia, e di scintille vomitava una nebbia che stridea sì forte come quando un carbon vivo nell'acqua immergi e spegni. Anzi, a quel modo, la luna, come ho detto, in mezzo al prato, si spegneva annerando a poco, e ne fumavan l'erbe intorno, intorno. Allor, mirando in ciel, vidi, rimaso, come un barlume o un'orma, anzi una nicchia, ond'ella fosse svelta, in cotal guisa, ch'io n'agghiacciava, e ancor non m'assicuro, Melisso. E ben hai che temer, che agevol cosa fora cader la luna in sul tuo campo. Alceta, chissà, non veggiam noi spesso di state cader le stelle? Melisso. Egli c'ha tante stelle, che picciol danno è cader l'una o l'altra di loro e mille rimaner, ma sola a questa luna in ciel, che da nessuno cader fu vista mai, se non in sogno. Fine del componimento 37°.